Dice Lawrence Stern nella Vita e opinioni di Tristram Shandy Gentiluomo, che fu pubblicato tra il 1760 e il 1767, dice che i nostri preconcetti hanno un enorme potere sulla forma delle cose e che per sua natura l'ipotesi assimila ogni cosa in se stessa come suo nutrimento naturale e che dal primo istante in cui è nata generalmente diventa sempre più forte a causa di tutto ciò che uno vede, sente, legge o capisce. Capita a tutti, figuriamoci a un giornalista. Negli 1903, negli archivi del Dipartimento Russo di Polizia, figuravano due nomi come quelli delle due persone più pericolose per il regime zarista. Il primo era quello di Lenin e il secondo quello di Bogdanov. Nella prefazione di Lenin alla prima edizione di Materialismo e Empirio Criticismo, che è del 1908, tuttavia, il nome di Bogdanov compare insieme ad altri che, pur continuando a pretendersi marxisti, attaccano sia la filosofia marxistica, lo dice Lenin, che attaccano il materialismo dialettico. Più che lo zar, dunque, già parecchi anni prima della rivoluzione d'ottobre, Bogdanov era diventato il nemico da battere. In gioco, forse c'era la filosofia in quanto tale, più amata da Lenin e meno amata da Bogdanov, e di certo in gioco c'era la possibilità o meno di parlare della verità oggettiva, no? Obiettivo necessariamente raggiungibile da parte del materialismo dialettico, secondo Lenin, e risultato truffaldino dell'asservimento della filosofia agli interessi della borghesia, secondo Bogdanov. Perse quest'ultimo, ovviamente, come perse la rivoluzione, minata alla base dall'arroganza degli intellettuali che ne presero il comando. E tuttavia la sinistra bolscevica, come vennero chiamati Bogdanov e i suoi amici, ingoiando il rospo di un patto in virtù del quale la disputa filosofica sarebbe stata affrontata e risolta a tempo debito e fidando delle proprie ragioni tanto quanto della contraddittorietà delle tesi altrui, partecipò attivamente ed entusiasticamente all'insurrezione. A Bogdanov, privato di ogni carica in seno al Partito Comunista Sovietico, rimase la magrissima consolazione di essere sopravvissuto di poco al proprio avversario. Lenin morì nel 1924 e Bogdanov, che da medico qual era rischiò, a quanto pare, un'inopinata trasfusione del sangue, morì nel 1928. Nonostante i suoi sforzi, invece, il materialismo dialettico ha resistito ancora un po'. Nel 2005 capita allora che il Manifesto, quotidiano comunista, organizzi una grande assemblea con lo scopo di ragionare di politica e di raccogliere, così ragionando, tutti i leader dei partiti che stanno alla sinistra dei DS. E capita che il Corriere mandi una sua penna salace per descriverne, più che l'andamento, il colore, o di coglierne quei minuti particolari che potrebbero valere più del generale. È così che, ecco, già con l'incipit si conferisce senso a chi scrive prima ancora che a ciò di cui scrive, perché erano 10 anni, recita così l'articolo, erano 10 anni che non si vedevano congressi politici senza hostes e con il materialismo dialettico. Sull'astuzia di correlare elementi disomogenei fra loro, senza hostes e con il materialismo dialettico, su questa astuzia ci si potrebbe scrivere un intero volume, ma Facendola più breve, diciamo che risponde soddisfacentemente all'esigenza di svalorizzare un termine tramite l'altro. Chi pensasse allora che nell'Europa di oggi si aggiri minacciosissimo il fantasma del materialismo dialettico, correlandolo alle hostess, gli rifila una legnata storica, ben più efficace di quelle di Bogdanov. La categoria dell'hostess, d'altronde, è di quelle solidissime. Prima di espandersi come air hostess, e prima di perdere l'air, il termine derivava dall'antico francese hostess, da cui l'oste di coloro che lo dimenticano sistematicamente quando fanno i loro conti, e l'ostessa sua signora. È tramite l'hostess da aereo che si arriva alla hostess da congresso. E così, ecco, come la prima presiede simbolicamente alle ritualità estirpanti la paura o la certezza di morirne, così, per rimanere al tema, l'hostess da congresso, sorriso a qualsiasi costo e scollatura ripida, gambe fuori, coscia da 122 centimetri, qualcosa di in più rispetto alle hostess da aereo, ecco, così l'hostess da congresso presiede simbolicamente alle ritualità estirpanti la paura o la certezza di quelle idee, materialismo dialettico incluso, che in congresso potrebbero anche venire dibattute. Voglio dire, più semplicemente, voglio dire che è vero. Con le hostess, niente rivoluzione. Senza con questo pretendere vero il contrario, che senza hostess la rivoluzione è garantita. L'articolo avrebbe anche potuto fermarsi all'incipit e avrebbe avuto tutto da guadagnarci, perché vabbè, le pagine vanno pur riempite, chi paga i giornali e i giornalisti ama la ridondanza. Fra i punti fermi, ecco, perché fra i punti fermi che caratterizzerebbero l'evento, fra Ingrao, punto, Trecine Rasta, punto, Azor Rosa è in Loden Verde Sciarpa Rossa, punto, c'è anche Pile dei dialoghi su scienza e filosofia di Bogdanov, punto. Il giornalista ha commesso due gravi errori. Il primo, non tutto ciò che finisce in off depone a favore del materialismo dialettico. E nel caso di Bogdanov siamo agli antipodi. Non solo, il libro in questione, Quattro dialoghi su scienza e filosofia, lo so perché l'ho curato io, discute proprio il senso dell'alternativa al materialismo dialettico proposto da Bogdanov, e in una sua parte piuttosto cospicua ne propone un'interpretazione costruttivista. Conferma, ecco, conferma in altre parole l'opposizione ideologica fra Lenin e Bogdanov. È un caso in cui, insomma, il giornalista che cercava il colore, sentendosi in dovere di screditare, invecchiando, tutto ciò che gli capitava sott'occhio, si è rivelato daltonico. Il secondo, il preconcetto. Il preconcetto con cui si è aggirato negli ambiti congressuali della sinistra radicale era talmente grosso, grasso e pasciuto anche nella più semplice arte del percepire e del categorizzare, il giornalista è caduto in fallo, o in fallullo. Ha visto infatti pile del libro in questione, dove, ecco, come mi testimonia chi ce le ha portate, chi se ne è ben riportate a casa le rimanenti, di pila ce n'era una sola, formata da ben 5 copie e affiancata da una sesta copia ieraticamente in piedi a sancire il culto di una rivoluzione non sua.